insolito coraggio ora in quest'alma portan di mala Gigi i fatidici sensi e del nume pro ripieno in me lo sguardo fisse e nel sacro furor così mi disse Ornando allora il cielo per te dispose le fortune d'amor quando ad Alcina involerai le ceneri famose che involse di Merlin l'alma divina spera colier potrai le gloriose palme che fato al tuo pater destino per te sia immortal custode stinto il poter della maga oppresso e vinto amorosa mi brame non più duol e timor speriam ben tosto sarem io glorioso e voi contente ma la Gigi improvvise e non me